Proprio così. Possiamo dirlo, stiamo facendo partire la sigla, il solito Seven Days, ed è la sigla di To-Do List, che quest'oggi ha un sacco di ospiti gloriosi, nonostante la mancanza del buon Piccarasi, che salutiamo, e niente, gli dedichiamo a questo punto la sigla. Meno male che non c'è, tra l'altro. Meno male che non c'è, dice Cigo. For the time, I said a customer name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No, didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. But what was the deal? A baby girl is 24. So is she keen? She couldn't wait. Cinnamon queen, let me update. But what did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. Some stuff with a bottle of Moe for tomorrow. Drink on Tuesday, we make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this guy on Monday, took her for a drink on Tuesday, we make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. Nine, one time, 'cause I be getting mine, and she was looking fine. Me talker, she told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the way she kicked it from the front to the back, she flipped it. And I, oh, I, yeah, hope that you care, 'cause I'm a man who'll always be there. I'm not a man to play around, baby, 'cause the one night stand isn't really fair. From the first impression, no, you don't seem to be like that. 'Cause there's no need to check, for there'll be plenty of time for that. From the subway to my home, and it's ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me Monday, took her for a drink on Tuesday. Questa era Seven Days di Craig David. Nel frattempo c'è stato un momento eco prepotente in questa nostra radio, che sappiamo essere praticamente immensa, enorme. A questo punto ti chiederei di abbassare un po' la nostra, no, le due cose lì, i due pitch, perché stiamo ascoltando la musica, no, più in alto, bravissimo, perché stiamo ascoltando la musica altissima, esatto. E a questo punto direi di partire subito, anche perché siamo partiti molto in ritardo rispetto a tutta una serie di problemi tecnici, e praticamente facciamo un mini recap su come funziona la puntata. Intanto io volevo salutare, perché abbiamo fatto prima di schiacciare rec, i nostri due ospiti, che sono Cigo e Sveva. Buonasera. Buonasera. Il nostro regista in supporto, che è il buon Gulli, e volevo salutare, ci tenevo molto a salutare la nostra ormai caporedattrice Greta, che ci fornisce sempre un sacco di ottimo materiale per le puntate, quindi volevo partire proprio subito così. Poi salutiamo anche Pika, che vabbè oggi ci ha fatto sta gentilezza di non venire. Grazie. No, non è vero, ti vogliamo bene, Pika. E allora, niente, io siccome non so quanti di voi abbiano seguito con sprint e con ardore questa puntata, vi racconto un po', vi riassumo un po' come funziona. Allora, praticamente noi abbiamo, intanto dobbiamo dire la data per brand, dobbiamo dire la data di oggi almeno ogni 27 secondi, minimo. Ok. Infatti mi stavo chiedendo quando l'avremmo detto. Ma infatti la dobbiamo dire perché è il 30 di novembre e se no Pica gli viene un coccolone e quindi noi dobbiamo dirglielo che è il 30 di novembre. Ah, e sono le 19.57. Bravissima, sono le 19.57, infatti è un po' tardino in realtà rispetto a quello che pensavamo di fare. Ma senza ulteriori indugi, praticamente come funziona? Noi racconteremo un po' quelli che sono gli eventi di questa settimana, a partire, diciamo, nel primo pezzettino dagli eventi di oggi, perché la fortuna vuole nella sfortuna di questi eventi online, perché non possiamo assemblarci liberamente, che possiamo andarci a recuperare dei video e quindi possiamo anche andare a ripigliare quello che è successo oggi e che non abbiamo potuto raccontarvi prima. Ci sarà della musica che dedicata a coloro che sono nati nelle giornate di questa settimana e gli eventi, diciamo, sono di vario genere. Per fortuna, se la pandemia ce lo permette, possiamo riniziare. Abbiamo già iniziato settimana scorsa a raccontare di un paio di eventi in presenza e anche per questa settimana chiuderemo con gli eventi in presenza, sperando che questa cosa sia ben augurante e che si rinizi a scendere in piazza festanti, ma anche un po' incazzati, ma anche un po' festanti. E manifestanti, suggerisce Game Svezia, che non vuole parlare al microfono nonostante ce l'abbia davanti. Festanti menano le mani, manifestanti. Ok, Nino. Allora, niente, stanno uscendo tutti. Stanno uscendo tutti da questo. Allora, si dice che fa freddo, io ho apprezzato molto Svezia invece e perfetto. E dopo queste freddure, in questo gelido 30 novembre, lo ricordiamo perché forse qualcuno non l'ha sentito, è il 30 novembre, oggi è il 30 novembre. 30. Sono le 19.59. Esattamente, e il broadcast ha fatto di nuovo un lilla, io ve lo dico. Oggi ci sta litigando, ci sta dicendo male la linea, speriamo che funzioni, se no manderemo in podcast quanto prima tutto ciò. Ricordiamo anche, perché questo me l'avrebbe fatto ripetere il buon Piccarasi, che alla fine delle puntate dalla pagina di Radio ZM esce un post che riassume tutti gli eventi che sono stati citati, in maniera che sia molto più comoda la lettura. Questo lo dico per tutti. A questo punto io chiederei alla buona Svezia di iniziare con gli eventi di oggi, cioè quelli che ci siamo persi, se vuole, se no possiamo osservare 6 minuti di silenzio. Sì. Ok, 6 minuti di silenzio. No, ci sono, vai. Dai, ce la posso fare. Allora, oggi c'era il ricordo di Tino Casali, dirigente dell'AMPI, nel centenario della nascita, e la diretta streaming sulla pagina Facebook AMPI Provinciale di Milano era appunto dedicata al ricordo di questo partigiano di Milano, appunto. Agostino Casali collaborò all'organizzazione dei GAP di Milano assumendo il nome di battaglia Tino, col quale verrà in seguito sempre identificato. All'inizio del 44, però, nell'Oltrepò Pavese, dove guidò il battaglione Cosenza e la brigata Casotti, con il ruolo di commissario della divisione d'assalto Antonio Gramsci ebbe un ruolo di primo piano nell'insurrezione generale che concluse alla liberazione di Milano. Dopo la guerra fu tra i fondatori dell'AMPI e fu a lungo presidente provinciale di Milano. Niente po' di meno che. Tra l'altro c'è fra gli oratori un esponente del Centro Puecher, il che mi fa pensare che, se anche non lo conosco, potrebbe essere forse di zona sud Milano. sì, intuirei anch'io. Vero? Potrebbe essere. Sì, qualcosa. O forse sono delle celebrità quelli del centro poker. Potrebbe essere. Vai pure, prosegui, scusaci. Poi c'erano anche dei percorsi di lettura di Prospero Editore, ed era il primo appuntamento con appunto i percorsi di lettura, un appuntamento che si presenta ogni lunedì alle 19, e in cui gli autrici, le autrici e gli autori della casa editrice di Prospero Editori tengono compagnia raccontando i libri che altre persone scrivono. E questa sera in particolare si è affrontato il tema dell'essere fuori posto, tra virgolette, in compagnia di Luca Cristiano, e lo scrittore poi ha parlato di It, di Stephen King, scusate, scusate la pronuncia. It, quello del clown del malefico. Clown, sì, tra l'altro è un classicone. Un classicone, ma infatti secondo me è interessante questa cosa di Prospero Editore, ne riparleremo anche settimana prossima, perché è una... cioè, di presentazioni di libri scritti dagli autori, ovviamente è sempre buono averne in più, ma questa cosa di presentazioni di libri di altri da parte di scrittori, vero, secondo me è divertente. Vero, sì. È divertente, quindi anche quello dalle 19, dalle lunedì. Ogni lunedì. Il lunedì, anche il prossimo, se volete. Mm-mm. E poi c'è Infinite Jest. Jest, come si legge? Scusa. Infinite Jest, tra l'altro David Foster Wallace è un grandissimo, io ho appena letto un suo libro, è un personaggio veramente particolare che ha scritto dei libri geniali e ai noi si è suicidato giovanissimo. Però, che libro hai letto? Ho letto La ragazza dai capelli strani, mi sembra, è un coso di racconti, bello. Mix di racconti, sì, è un personaggione lui comunque. Interessante. Comunque sì, la rubrica che oggi c'è stata, tornando al discorso, è pensata perché ognuno scelga un tema e lo sviluppi offrendo al pubblico di Prospero Editori una serie di consigli bibliografici senza, insomma, poter parlare del proprio libro. Infatti mi sa che è collegato a questo quello che dicevi, cioè trovo anch'io interessante che gli autori di alcuni libri parlino di altri libri, ed è fatto apposta per questa piattaforma. Infatti ottima idea, è sempre il nostro Prospero Editore, di cui ricordiamo, per chi non li avesse visti, abbiamo fatto la presentazione di ben due libri nelle ultime due settimane, in realtà di un libro di una rivista, vero Cigo? Sì, confermo. È stato bello? Ti è piaciuto? Sì. Quale dei due ti è piaciuto di più? Foglie di gelso o Q-Code Magazine? No, non lo diciamo, sono stati belli, diciamo, tutti e due, dai. Non si può dire. Non si può dire. È come chiedere se preferisci il genitore 1 o il genitore 2. Genitore 3. È come chiedere se preferisci 6 minuti di silenzio. Ma facciamo in modo che Cigo diventi il nostro yes man. Cioè, noi facciamo domande, sì, soltanto con lui può rispondere sì. E basta. Sì, bello, bello, mi piace. È un format nuovo. Fino a quando non farà la sua puntata, maledetto. Tra l'altro mi è venuto. Vabbè. Non puoi parlare, devi solo dire sì. Sì, sì. Comunque vorrei. Mai Svezia, posso? Guarda, prosegui, sì, perché grazie. Qua. E poi abbiamo avuto Intellettuali tra potere e rivoluzione nel vicino Oriente contemporaneo. È una serie di incontri organizzati dal Centro Studi Movimenti Parma. E questo corso, insomma, serve a conoscere gli uomini e le donne protagonisti delle principali correnti di pensiero politico e dei movimenti sociali che hanno attraversato il vicino Oriente nell'epoca contemporanea. E, insomma, poi nel corso della puntata è stato analizzato il rapporto con la società e i centri di potere, il contributo che hanno lasciato alle grandi tematiche ancora oggi dibattute sull'altra sponda del Mediterraneo. E l'incontro di oggi era intitolato George Habash e il movimento dei nazionalisti arabi. È stato alle 18:30, purtroppo, quindi è passato, ed era in diretta sulla pagina Facebook del Centro Studi Movimenti Parma, appunto. A questo punto l'ultimo lo citiamo tutte le settimane, perché è l'appuntamento, qua mi inserisco io, è l'appuntamento dell'associazione Antigone, che tutte le settimane alle 11 di mattina dei lunedì fa incontri in cui approfondisce alcuni diciamo aspetti del mondo carcerario, diciamo. L'associazione Antigone dal 91 fa un lavoro veramente notevole in merito, e se non erro la puntata di oggi si riferiva alla Puglia e alle proposte di Antigone tendenzialmente rispetto all'utilizzo dei fondi del Recovery Fund in materia penitenziaria. Anche questo è disponibile, come tutte queste cose che sono successe oggi, ma in realtà sono disponibili sulle pagine poi Facebook per un po', quindi se ve lo andate a recuperare lo trovate lì dove si trovava questa mattina quando è stato fatto in diretta. A questo punto, con la fine della giornata di oggi, io passerei alla prima canzone, perché il primo a compiere gli anni, cioè oggi 30/11/1955, è Billy Idol, che è un personaggissimo della scena degli anni 80, e quindi noi assolutamente con gioia e gaudio ci ascoltiamo Dancing With Myself. It'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. Well, there's nothing to do, so there's nothing to prove. Well, I'm dancing on with myself. It'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. Dancing with myself. If I had the chance. Eccoci tornati. Allora, yeah. Ricordiamo, oggi è il 30 novembre 2020, esatto. Sono le 20:12. Bravissima, esatto, parte 2. Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ti è piaciuto Billy Idol? Molto, sì, mi ha dato la carica. Vero? Sì. Grande. Billone Idol, sì, proprio lui. Auguri. Che ci ascolta sempre. Ci ascolta sempre, ci ha registrato questa canzone prima in cameretta e ce l'ha mandata così in versione live and direct. Un kiss. Un kissino. Un kiss a Billy Idol. E vabbè, a questo punto io direi di proseguire, nel senso che la giornata di oggi è finita, ma ne seguono altre 6, quindi noi partiamo. Cosa ci dici, Sveva? Allora, io so di un prossimo appuntamento che riguarda il divorzio in Italia. 1970-2020, dal divorzio alle unioni civili, una storia lunga 50 anni. Mi sembra un buon titolo. Questo è martedì. Questo è... sai che... È sai martedì 1 dicembre, prima sì. Martedì 1 dicembre alle ore... Aspettate un attimo. Domani è già il primo dicembre. Allora c'è un attimo. Eh sì, domani è già il primo dicembre. Dice 24 giorni a Natale. Mamma 24 mia. Giorni alla poltrona per due. Che se per caso dovesse saltare, io faccio saltare le teste del. La poltrona per due non è anti-Covid. Comunque non è anti-Covid, è una poltrona per due perché non c'è il distanziamento adesso. Sociale. No, è vero, però se si è congiunti si può fare, secondo me. E comunque questo appuntamento qui riguardo al titolo che ho appena letto è martedì 1 dicembre alle 18:30 in diretta video sui canali Facebook e YouTube di Micromega, entrambi con la M maiuscola. E niente, durante questo appuntamento si parla di divorzio, sì, dicevi, si parla, no? Di divorzio, che è una legge entrata in vigore nel 1970, è stata soggetta a molti dibattiti politici e sociali, è stata anche una conquista sociale, dobbiamo ricordare, perché diverse donne soprattutto hanno dovuto combattere in casa e in strada per poter appunto vedere il loro diritto al divorzio insomma realizzato. Sono d'accordo, quindi un cinquantenario, raga, comunque 50 anni non è tanto, cioè adesso non è che voglia fare la vecchia, adesso arrivano i due giovincelli e qua dicono mica 50 anni è tantissimo. E invece sì, sono vecchia, sì, sono vecchia, tu ste cose le devi dire al microfono, non è che arrivi al microfono e dici microfono. Sì, ho detto, sì, mamma, tu sei vecchia. Sono vecchia e comunque 50 anni non è tanto per una cosa che per fortuna adesso ci sembra normale come divorzio. Tra l'altro, se non erro, a presentare questo incontro ci sono, a parte una redattrice di Micromega, ma c'è un nome noto, giusto? Sì. La Saraceno, c'è? Esattamente, Chiara Saraceno, che è una sociologa, filosofa e accademica italiana. Sì, lei è una tizia molto in gamba, che ha fatto tutta una serie di studi molto interessanti e quindi secondo me avrà anche delle robe da dire. Non so perché stai facendo un leggero fischio tipo in cuffia, ma adesso no. Vabbè, quindi molto bello, martedì 1 dicembre alle ore 18:30 sulle pagine di Micromega. Esatto. Ok. Poi cos'hai da offrirci? Ho Chronic Queers, costruire pratiche inclusive per l'accesso alla salute. Leggi un po'. Allora, la guida pazienti e utenti LGBTQ+ con malattie croniche. Costruire pratiche inclusive per l'accesso alla salute. Nasce dal progetto di ricerca Chronic Queers, realizzata da Mara Pieri, Università di Coimbra. E la ricerca analizza le esperienze di persone LGBTQ+ con malattia cronica. Dai racconti delle persone intervistate, grazie ad un percorso di collaborazione con Codici Ricerca e intervento nell'ambito di Controtempo, colpe e ricerche da raccontare, nasce la guida che si rivolge al personale medico e sanitario, alle associazioni che lavorano sulle malattie croniche, alle associazioni LGBTQ+. L'obiettivo è far conoscere questioni poco dibattute nel contesto sanitario e offrire alcune suggerimenti per rendere tali contesti più inclusivi e accessibili. Questo appuntamento sarà mercoledì 2 dicembre alle ore 17:30 su Zoom e per partecipare è necessario registrarsi al link presente nell'evento. Probabilmente questo evento lo si può trovare su Facebook. Lo si può trovare su Facebook, si chiama Chronic Queers, ridimmi bene come si chiama? Costruire pratiche inclusive per l'accesso alla salute, Chronic esatto. Queers. Tra l'altro sfrutto l'occasione per dire che alla fine della puntata, come al solito, sulla pagina di Radio ZM ci sarà poi il post riassuntivo, così ognuno di questi eventi è facilmente recuperabile. A questo punto ce n'è un altro di cui ci vuoi parlare, carissima Svezia? Sì. Dici pure, guarda. Mi piace già il titolo. Edipo e il contagio, presentazione di uno studio teatrale condiviso. È a cura di Teatro degli Incontri e ha l'intenzione di mettere in campo pensieri grandi. È una pratica artistica capace di fare i conti con questo tempo che stiamo attraversando. Hanno scelto, insomma, durante questa, questo prossimo evento di prendere come compagno di viaggio in questa riflessione Edipo, o meglio il mito di Edipo. Raccontano che il nostro studio teatrale farà i conti con il mito di Edipo, con le meravigliose tragedie di Sofocle, con le domande e gli interrogativi grandi cui il mito di Edipo porta. Incontreremo studiosi di teatro, intellettuali capaci di dare spunti e chiavi di lettura. Poi, attraverso un lavoro personale e collettivo, cominceremo a dare prime risposte alle domande, attraverso la scrittura e la creazione di materiali importanti per la scena, legando il mito di Edipo con il nostro tempo e i conflitti che stiamo attraversando. E sarà online su Zoom, è aperto a chiunque, teatranti e non, residenti a Milano e non, insomma qualsiasi persona desiderosa anche di lavorare su un mito che riguarda la polis, le forme della vita nella città. E questo appuntamento quando? Sarà mercoledì 2 dicembre dalle 20:45 alle 22:45 su Zoom. E anche qui è necessario registrarsi al link presente sull'evento, che anche qui sarà su Facebook sicuramente. Esattamente, anche in questo caso Edipo il contagio è il rimando, diciamo, all'evento Facebook. Teatro degli Incontri propone sempre delle cose abbastanza interessanti. A questo punto spezzerei con un'altra cosa, forse ho sbagliato a mettere in ordine, ma tu tanto sei su un'altra playlist, caro il mio buon Guglielmo, e fai un po' quello che ti pare. Allora no, aspetta, no, anche se io quando hai detto spezzerei speravo che spezzassi qualcosa sulla schiena di Cigo, tipo. Sì, anche. In realtà, grazie, vedi, ho messo per seconda quella che doveva essere terza e come terza quella che doveva essere per seconda. Brava. Quindi noi in realtà adesso ci ascoltiamo un'altra traccia, esatto, che si chiama Wonderful World. Wonderful Life, sì, bello che suona. Che è un pezzo di Giuliano Palma, il quale compie gli anni, suppongo, dopo domani, se Svezia non mi avesse tolto il foglio, ma comunque è un altro compleanno di questa settimana. Quando è che compie gli anni? 2 dicembre, vedi? 2 dicembre del 1965. Non è più un ragazzino, Giuliano Palma. Non è più un ragazzino Giuliano Palma, che infatti a questo punto compie la bellezza di 55 anni e gli faremo gli auguri con questo classicone che è del, non mi ricordo, ma direi tipo 99, di un album del 99. Io non voglio neanche chiedere ai miei qui presenti. Dipende quando è uscito di quell'anno. Guarda, sei disgustoso. C'ero o non c'ero. Sei disgustoso, Cigo. Vedo o non vedo la mia esistenza. Tu pure, guarda, sei una vergogna. No, io non stavo ascoltando. Ah! Sveva non stava ascoltando, ma aveva un anno quando è uscito questo disco, che è un discone, si chiama The Album, Giuliano Palma and the Blue Beaters, e ha fischiato tutto. E Giuliano Palma and the Blue Beaters, il quale ha fatto appunto, i quali hanno fatto quest'album di tutte cover, e una delle più note è questa qui, che adesso alziamo direttamente. Rieccoci. Terza parte. Ti è piaciuto Giuliano Palma? Molto. Sei vergognato del fatto che non fossi ancora nato? No, in realtà no. Avresti dovuto. In questo avresti dovuto. Lunedì 30 novembre. Bravo, 2020. 30 novembre, ancora novembre. All'alba delle 20:27. Figa. Tardi, quindi proseguiamo senza indugio, esatto. Vai Svezia, che cosa c'hai da dirci di nuovo? Perché secondo me ci sono ancora un po' di cose interessanti. Sì, molto interessanti da quel che vedo. Allora, il prossimo appuntamento sarà dalla strage di Bologna, 15/40, con Paolo Bolognesi. E racconta appunto della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80. E aveva 27 anni Onofrio Zappalà, una delle 85 vittime innocenti di quella lucida follia, e un bagaglio di sogni, tutti da scoprire e da realizzare. Il suo corpo viene sì dilaniato, ma il seme della sua breve vita viene col tempo messo a dimora affinché del suo ricordo possa emergere con forza la consapevolezza che nella vita nulla passa se non per lasciare l'indelebile impronta del proprio io. Tra queste pagine, dalla causa all'effetto, la nuova pianta generata da quel seme che ancora vive e si presenta con quell'intenso profumo di memoria per proporsi a una nuova vita, quella testimonianza vera e reale che va a scolpirsi nel tempo, memoria viva per ciò che verrà. Gli autori Natale Caminiti, Antonello D'Arrigo, ne discutono con Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione Familiari Vittime della Strage di Bologna. Questo appuntamento, infatti, dici quando è? Si terrà mercoledì 2 dicembre alle 18 sulla pagina di Ampi Provinciali di Milano. In Ampi Provinciali questa settimana ho creato una serie di eventi, in realtà addirittura non tutti sono all'interno dell'agenda di To-Do List, ce n'è addirittura di più, quindi nel caso andate a darci un occhio. E a seguire io, e in questo ringrazio Greta, perché è un evento che ci ha passato lei e che sono contenta che abbia passato, perché io me l'ero persa, ed è un evento con Mercalli, con Luca Mercalli, niente poco di meno, che è uno degli idoli del CESA fondamentalmente. E Cigo fa delle segni con le perché mani, perché faccio casino e me ne accorgo tardi. Okay, pensavo che stesse con me stesso. Vabbè, è uno scandalo questa cosa. Allora, fondamentalmente questo incontro, adesso se vuoi, aspetta che ovviamente non vedo una mazza e quindi sto cercando di guardare, ma la mia miopia cavalcante non me lo permette. Aspetta che faccio un passaggio random. Ui. Non male. Praticamente ho cambiato microfono. A voi da casa non l'avete visto, ma Chiara ha fatto un salto quantico in avanti di qualche decimilionesimo di chilometro, esatto, spaziale. Per cui da un microfono è passato all'altro con un'agilità, oserei dire, felina. Guarda, oseresti Cigo, dire bene. Cigo, ti è sembrata una cosa utile da fare? Sì. Grazie Cigo. Grazie Cigo. Veramente dirimente la sua presenza qui. Allora, praticamente, come dicevo, Greta ci ha sottoposto questo incontro che è molto interessante e che per una volta si distacca da quello che è il nostro ambito più o meno militant largo giro, in un tema che in realtà, se non è già, diventerà, o speriamo diventi sempre di più, che è quello della crisi climatica, per l'appunto per l'incontro stasera Che Scienza con Luca Mercalli. I temi della giornata sono la crisi climatica ed ambientale, rischi sottovalutati e soluzioni lente. Quindi all'interno della, diciamo, della nuova epoca geologica che è l'antropocene, ci sono evidentemente dei limiti fisici da non superare se vogliamo evitare il collasso degli ecosistemi e del clima, e ognuna di queste tematiche, diciamo, ognuno di questi interrogativi e a sua volta di soluzioni possibili sono discusse insieme al buon Luca Mercalli, che è un climatologo, nonché presidente della Società Meteorologica Italiana, nonché uomo simpatico con il papillon, che in realtà è un grande divulgatore, anche se adesso come dire, la luce della ribalta per la divulgazione scientifica se l'è presa Barbero, ma in realtà anche Mercalli è un grandissimo. Salutiamo comunque Alberto Angela, che lui non fa scienza, lui divulga. Ma lui, vabbè, ma lui è un fuori, come dire, cioè lui è fuori dalla liga, cioè proprio in un'altra atmosfera, e quindi in realtà fra le persone un po' più esseri umani, diciamo, Luca Mercalli comunque si destreggia abbastanza bene. L'incontro è alle 20:30 di giovedì 3 in diretta sui canali social della Fondazione Bruno Kessler con la K. E per l'appunto l'evento è dedicato a crisi climatica ambientale, i rischi sottovalutati e le soluzioni lente. A questo punto io potrei proporre un altro pezzo, che in realtà è quello con cui ho fatto salire su tutti, perché nel 2 dicembre, quindi insieme con Giuliano Palma, ma nell'81 è nata una grandissima, che è Britney Spears. E a questo punto io volevo far ascoltare questo pezzo, che è il suo più, diciamo, il suo primo grande successo, ed è un singolo di debutto della cantante, che è stato pubblicato 4 giorni dopo la nascita di Sveva e un anno prima della nascita di Chico. Volevo dirlo così per farvi sentire tutti molto male. Questa è Baby One More Time. Oddio. Ed è del 30 settembre del 98. Tanti auguri Britney, grande. Let you go, and now you're Sì, a tradimento. Lanciati in talk a tradimento, mentre stavamo facendo una serie di balletti e cantatine su questa cosa, perché obiettivamente la sappiamo tutti assolutamente a memoria, nonostante chi ha, ha, diciamo, chi era nato, chi, a chi piaceva, chi no, chi non era ancora nato, ma tutti la sanno a memoria questa canzone. E tra l'altro tutti si ricordano a memoria il video, perché voglio dire, oltretutto è entrata anche abbastanza nei nei sogni di tutti i bimbi e i meno bimbi degli ultimi 20 anni. A questo punto proseguiamo con gli eventi, andiamo un po' in avanti, visto che ci stiamo avvicinando all'orario della riunione dell'assemblea di ZAM. Esatto, ricordiamo comunque che è il 30 novembre, brava, sono le 20:37 e siamo in onda. Ottimo, ottimo. Ok, allora continuiamo. Formazione, casa e affitti al tempo del Covid. Il gruppo di mutuo aiuto e autodifesa sindacale per la casa di Non sei sola, non sei solo, riprende le sue attività con un ciclo di incontri di formazione con la collaborazione di Marco De Guio, Unione Inquilini Sesto San Giovanni. Questi incontri sono rivolti a chiunque sia interessato o interessata ad acquisire maggiore consapevolezza e conoscere rispetto al diritto all'abitare, alla differenza tra l'edilizia pubblica e privata, ai requisiti per accedere all'edilizia pubblica popolare, agli strumenti che abbiamo a disposizione per fronteggiare in questo difficile momento di emergenza sanitaria le criticità legate alla casa, come sfratti o affitti insostenibili da pagare. Questo incontro è organizzato da Remake, è alle ore 18:30 di giovedì 3 e è prevista sulla piattaforma Jitsi Meet ed è prevista anche una diretta Facebook dalla loro pagina. Ottimo, ottimo, grazie ai compagni di Remake che organizzano questi momenti di autoformazione che sono abbastanza fondamentali per tutti, sia chi diciamo attraversa il movimento all'abitare per questioni, come dire, per bisogno primario, sia per chi lo fa in maniera solidale. A questo punto proseguirei con il prossimo, che riguarda un'altra figura notevole della storia italiana, che è Basaglia. Dici un po', che non mi ricordo assolutamente nulla. Mi ricordo che il titolo è Ripensiamo Basaglia. Ripensare, forse. Esatto, Ripensare Basaglia. I coordinatori dei cantieri Mario Colucci, Pierangelo Di Vittorio, Raul Kirchmeier e Piero Aldo Rovatti spiegheranno come saranno organizzate le lezioni, chi saranno gli ospiti italiani e internazionali che interverranno, vabbè, le tematiche che affronteranno. E i coordinatori dei laboratori, Annalisa De Carli, Alessandro Di Grazia e Vincenza Minnit, racconteranno come si svolgono gli incontri e quali sono i temi previsti. Questo incontro si svolgerà venerdì 4 alle ore 18:30 in streaming sul canale YouTube della Scuola di Filosofia. Ottimo, a questo punto ce n'è un ultimo, se non erro, che è un evento un po' più istituzionale, diciamo, di cui non starei a citare tutti i, diciamo, gli interventi, ma tanto per darvi l'idea, passano da Medicina Democratica a Rifondazione, a in realtà il Movimento 5 Stelle e altri nomi anche delle figure istituzionali, diciamo, di Milano, ed è un evento che, se non erro, verifica fondamentalmente, vuole partire da una tavola rotonda per fare una sorta di verifica della legge 23 e diciamo con lo scopo di parlare di come ricostruire un servizio sanitario pubblico in Lombardia. Ed è un incontro, appunto, lo stampo istituzionale, però visto che come dire, sono alcune delle personalità che si affacciano sul dibattito, ai noi, di questa questione così pressante, è bene ascoltare che cosa dicono. E anche in questo caso la diretta la troviamo sull'evento Facebook, che si chiama Dalla verifica della legge 23 alla ricostruzione del servizio sanitario pubblico in Lombardia, ed è Giovedì 4. Giovedì 4, ore 21. Allora, a questo punto io ho tagliato un po' dritto così per stringere un po', ma comunque cioè, dopo abbiamo un cambio abbastanza drastico di atmosfera, perché oltre a Britney Spears, Giuliano Palma e Billy Idol, a compiere gli anni questa settimana è un colosso come Ozzy Osbourne, che il 3 di dicembre del 48 prendeva i suoi natali, come dire. E di Ozzy Osbourne mi sembrava sensato in realtà proporre un pezzo tratto dalla sua diciamo parte più diciamo dalla prima parte della sua carriera, che era come leader dei Black Sabbath, e questa è una delle tracce più famose loro, si chiama Paranoid. Ci siamo. E che giorno è, Cigo? Oggi è il 30 novembre 2020. Ma incredibile. E Sveva, che ore sono? Oddio, sono le 20:45. Raga, incredibile. Sta volando il tempo quando ci si diverte, è vero? Si vola. Vero. A questo punto in realtà noi abbiamo finito la prima parte, che era quella un po' più consistente, perché adesso passiamo a una sottospecie, diciamo un sottogruppo di eventi, che sono in realtà i diciamo gli eventi da più giorni, e ce n'è diversi anche questa settimana. Quindi ci sono un paio di festival e o un paio di conferenze che noi vorremmo proporvi, a partire dal primo, che è un festival che ci ha proposto il buon Picarazzi from Phoenix. From Phoenix, e lui praticamente ci ha proposto questo, giustamente, essendo lui cineasta e video operatore, ci ha proposto questo festival di cinema, e ce l'ha proposto con le parole che sono presenti sul sito, che io non leggo perché sono mio, quindi Sveva, coadiuvami per favore. Eccomi qui. Pika sponsorizza. Sì, comunque grande Pika, ti saluto, ti mando un bacino. Sei il migliore. Allora, vero. Dal 27 Filmmaker Fest, dal 27 novembre al 6 dicembre Filmmaker 2020 è interamente disponibile online su My Movies al prezzo di 9,90 euro e con la formula di abbonamento sostenitore al prezzo di 50 euro. Vabbè, questa era l'intro. È giusto, perché è giustamente sono lo tutti, diciamo. No, è giusto anche perché, come voi ben sapete, il cinema non è un bene necessario, non gliene frega niente a nessuno, quindi possiamo serenamente chiudere il cinema, perché lì la gente proprio si contagia così come i pazzi, così come questo gesto che sto facendo a mano, e quindi giustamente in radio non si capisce, però effettivamente siccome si contagiano a mazzi li hanno chiusi, ovviamente sono ironica, e quindi vabbè, nel caso ci sta anche il sostegno, soprattutto se è un film festival con parecchi titoli, come credo che sia questo in realtà. Dimmi di più, Svezia. C'è il virus, tutto è chiuso. Rinunciare alla programmazione in sala è doloroso ma obbligatorio. Non una perdita, però. Basta. Facile dirlo, ce ne rendiamo conto. Trasformare il problema in un'opportunità. È questa la chiave di tutti i processi creativi. Dalla necessità spesso nascono le idee migliori, e così noi, già in primavera, quando chiusi nelle nostre case, impossibilitati a viaggiare, a raggiungere i festival che uno dopo l'altro rinunciavano alla presenza, abbiamo iniziato a lanciare messaggi ai filmmaker amici, a quelli con cui abbiamo rapporti più stretti, a chi ha collaborato con noi in anni recenti o remoti. Questo era Luca Mosso. E appunto dal 27 novembre a domenica 6 dicembre su My Movies c'è questo appuntamento. Il programma è su www.filmmakerfest.com. Perfetto. Allora, c'è un secondo festival, questa volta è diciamo sempre online, ma questa volta invece di libri, se non erro, che è uno di quegli eventi che siamo, diciamo, tutto sommato contenti che abbiano spinto particolarmente la parte non in persona e quindi da remoto, perché è a Pisa e quindi probabilmente noi non saremmo riusciti a vederlo, ma in realtà è a disposizione sul loro sito, se non erro, e Svezia, dici pure di cosa si tratta. Allora, diciamo che è nato nel 2003 e aveva la missione di valorizzare gli editori indipendenti. Il festival è cresciuto sino a conquistare un posto abbastanza stabile di primo piano nel panorama culturale nazionale e internazionale. È dinamico e abbastanza originale, ospita ogni anno più di 200 eventi, dall'incontro con l'autore al convegno e dal laboratorio di scrittura al seminario per traduttori fino allo spettacolo e al reading. Questo programma verrà trasmesso in streaming sul sito pisabookfestival.com e sul canale YouTube. Ottimo, ottimo. A questo punto c'è un terzo programma che in realtà avevamo già introdotto settimana scorsa, perché è un diciamo è un evento su più giorni, diciamo in particolare 2 giorni di settimana scorsa e 2 giorni questa settimana, ed è l'Università Migrante. L'Università Migrante, per chi non lo sapesse, è un evento organizzato ormai da parecchio tempo dal Circolo Arciblob di Arcore, ed è un evento, diciamo, evidentemente, come suggerisce il titolo, di approfondimento su alcune delle tematiche riguardanti la migrazione, i migranti e le migranti. Non mi ricordo nello specifico quale sia il programma di questa 2 giorni. Sveva, se tu puoi sostenermi in questo. Sì, ricordo che la partecipazione è gratuita. Comunque, sabato 5 dicembre dalle 14 alle 16, Marianna Crippa, il diritto dell'immigrazione, asilo e cittadinanza in Italia fra interventi normativi nazionali e patti europei, leggi, prassi e criticità attuali. Poi, sempre sabato 5 dicembre dalle 16.30 alle 18.30, un ponte per Migrazione Medio Oriente, le ragioni e le voci. Dopo ciò, domenica 6 dicembre dalle 15 alle 17, Alfredo Luis Somoza, la geopolitica delle migrazioni ai tempi del Covid. Questo quindi è il circolo Arciblob di Arcore, che appunto fa una full immersion, scusate, nell'attualità, e organizza dal 22 novembre al 6 dicembre tre weekend di incontri. Università Migrante comunque è giunta alla sua quinta edizione quest'anno e niente. Ma sai Sveva che sei così, cioè, così informata, sembra quasi che tu stia leggendo da qualche parte queste informazioni, ma evidentemente invece è tutto sacco. Ma mi sono distratta, di cosa state parlando? Ma no, stavo solo... Quell'evento dove picchiavamo Cigo la sera. Bello. Ma siete già arrivati a parlare di Libri Monelli? Guarda, quasi, potresti quasi, farlo perché tu, in realtà io non sono sul pezzissimo, perché è una cosa che ho scoperto quest'oggi. Wow. Perché Momo Editore è un editore che non conoscevo, che però credo che abbia veramente parecchio da regalare, ed è di Roma, ed è un editore che aveva diciamo una serie di percorsi aperti in questi giorni e ha deciso di spostarli tutti davanti al cinema occupato, che in questo cinema palazzo occupato, che in questo momento è stato sgomberato da simpatica giunta della Raggi. Detto questo, in realtà ho visto che, per l'appunto, ci abbassi un pochino sotto la musica, perché non la sento assolutamente, chiedo scusa. No, sì, perché sento dei Soulfly in sottofondo, che è abbastanza, cioè un po' monta, effettivamente un po' monta, funziona, sì. Però forse quasi troppo, e quindi è un po' meno, bravissima. E quindi in realtà io vorrei chiederti di leggere la descrizione di questo Libri Monelli, perché è un programma che loro hanno, un festival che loro hanno organizzato dal 3 al 6, se non erro, e sarà in streaming dal Brancaleone, tra l'altro, e ci sono una serie di appuntamenti veramente notevoli, fra cui ricordo anche nomi non irrilevanti, cioè ci sono diversi illustratori e illustratrici abbastanza famose, c'è Militantazza, c'è Zero Calcare, quindi in realtà se Sveva ci puoi dire un attimo di più, perché secondo me è una cosa che va tenuta abbastanza ad occhio. Sì, io devo dire che a primo impatto è molto interessante, diciamo che in generale... l'oggetto in questione è la cultura, perché Momo l'editore crede che non venga mai dopo, e quindi organizza una sorta cioè organizza un vero e proprio festival pieno di inclusione, rivolto soprattutto ai bambini e ai ragazzi, ed è appunto il Festival Libri Monelli, che promuove il piacere e l'urgenza della lettura tra i più giovani, soprattutto in un momento, insomma, delicato come questo. Esatto, in cui... Allora io darei appuntamenti, consiglio vivamente di parteciparvi, giovedì 3 dicembre in streaming dal Brancaleone, come dicevi tu, dalle 17 alle 18:30, Portami al mare, laboratorio per bambini dai 4 anni, mi raccomando, con i biologi marini. Poi dalle 19 alle 20:30, La caricatura e la satira nel fumetto, workshop con Alessio Spataro, fumettista. È Spataro o Spataro? No, è Spataro, tra l'altro, okay. Anche questo è un signor nome, e infatti in realtà questi qua sono solo due degli incontri, ma nei giorni successivi io non li ho trascritti tutti, ma andate a vedervi questo sito, che è momoeditore, per l'appunto, .it, forse. momoedizioni.it. Ah, brava. momoedizioni.it. C'è un programma che è piuttosto denso e effettivamente la partecipazione è gratuita, ed è veramente delizioso, come dire, come proposta, cioè va da fumettisti a illustratori a biologi marini, e sono tutte principalmente cose per i bimbi, quindi chiunque abbia un bimbo a portata di mano glieli faccia, gli schiaffi davanti al computer a fare qualche cosa di divertente. E a questo punto, visto che praticamente alla regia è entrato Cigolino, grande, è diventato Cigolino il nostro regista e ci può mettere su quella canzone che è quella che viene dopo, con cui salutiamo l'ultimo poi pezzo della trasmissione, e come dire a farci godere un altro po' di buona musica. Nato il 5 di dicembre del 32, se non erro, se non vedo male, sempre mi sembra un enorme test ottico tipo, in cui io dico M, F, 5 e scopro che erano tutti segni che non erano neanche delle lettere. Vabbè, comunque nel 5 di dicembre del 32 nasce un personaggio che è Little Richards, che ha un ciuffo esagerato ed è un po', diciamo, un ottimo nome della scena rockabilly e rock nascente, e questo pezzo è particolarmente noto, si chiama Tutti Frutti. Cigo, annuisce? Vai, mettilo, vai. No. Adesso vediamo se ce la fa. Eccolo qua. She's the gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, woo. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. A womp bum a loom bump a lump bum bum. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows I love me, yes indeed. You don't know what you're doing to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, woo. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. A womp bum a loom bump. Succede ogni volta questa cosa, è bellissimo. E niente, a questo punto siamo arrivati all'ultima, ma non meno importante, anzi forse più importante, parte della puntata di The To-Do List, nel senso che alla fine noi ci teniamo gli eventi politici e quelli in generale in presenza, che spesso coincidono fortunatamente. E niente, praticamente i due eventi che vogliamo spingere quest'oggi sono in realtà lo stesso giorno, ma uno dei due è più per rappresentanza, perché in realtà è a Torino, si svolge a Torino, e quindi possiamo chiedere a quelli che sono a Torino di recarvici, sì, ma noi diciamo lo diciamo più che altro per solidarizzare e spingere anche la loro lotta. In realtà per chi è a Milano, per chi è a Milano Sud e non, per chi è in provincia di Milano e o non, perché in realtà per partecipare a questo tipo di incontri si può, nel senso che esiste un'autocertificazione, cioè esiste la possibilità, con una dicitura che verrà specificata a breve, di inserire nell'autocertificazione come motivo di spostamento fra un... fra un comune e un altro la partecipazione ad una manifestazione. Quindi quello che invitiamo tutti a fare è a recarsi alle 2:30 di sabato 5 dicembre alla metropolitana verde di Cernusco sul Naviglio, da cui partirà poi un presidio diciamo poco distante alle 15:30 contro l'apertura della libreria Altaforte di Cernusco sul Naviglio. La libreria Altaforte di Cernusco sul Naviglio è una libreria di fascisti, è una libreria diciamo guidata e aperta da Polacchi, che è quel famoso Francesco di Piazza Navona, per chi se lo ricordasse, ed è un diciamo esponente di Casa Pound, con diciamo il suo editore, che è quello che fa uscire anche il Primato Nazionale. Ha aperto questa libreria a Cernusco sul Naviglio e che vi piaccia o no, a quanto pare i fascisti i libri li leggono, quantomeno li scrivono, e niente, quindi vorrebbero fare questa cosa, evidentemente, cioè, mi sembra piuttosto evidente, adesso ditemi voi, visto che siete qui in silenzio, che non mi dite niente, se vi sembra il caso che questa libreria apra i suoi battenti e se il, come dire, il territorio di Cernusco si merita questa cosa. Dici, Cigo? Direi decisamente no, non se lo merita nessuno. Diciamo. Non se lo merita nessuno. Diciamo. Nessuno si merita l'apertura di una sede di fascisti vicino, e quindi tantomeno i nostri vicini di Cernusco sul Naviglio. Quindi chiediamo a tutti di partecipare a questo presidio, che è sponsorizzato e organizzato e promosso da tantissime sigle e associazioni in ambito milanese. Per quanto riguarda invece il secondo, ovviamente vale per il primo e vale per il secondo, si richiede di mantenere tutte le misure necessarie a vivere serenamente e in salute la piazza, quindi mascherine, distanziamento e testa, diciamo, testa, serve un po' di testa sempre in generale per le malattie come il Covid e per le malattie come il fascismo. E a questo punto mi sento di chiudere sponsorizzando, per chi si trova sul territorio torinese, anche la manifestazione del popolo torinese contro gli sprechi delle grandi opere, diciamo in prossimità della data che è a loro molto caro, che è quella del 5 dicembre? No, dell'8 dicembre. E in realtà questo è il 5 dicembre, quindi ovviamente non è mercoledì, però il popolo, diciamo, torinese, il popolo valligiano è il popolo notav che da anni e anni e anni sta mettendo in campo una strenua resistenza contro le grandi opere, non può che essere in prima linea rispetto a quelli che sono gli sprechi per le grandi opere, che invece dovrebbero essere rivolte alle diciamo spese per finanziare la sanità pubblica in un momento in particolare come questo, ma anche in quelli che seguiranno. Quindi io con questo chiuderei questa rubrica. Anche quest'oggi è stato molto bello. È stato molto bello, sono stata molto contenta, devo dire. Anch'io sono divertita. Brava, guarda, infatti sono molto contenta che mi abbiano raggiunto Svezia e Cigo. Probabilmente è Lorenzo che puzza. A questo punto inizio a pensare, perché qua c'è Gulli che giustamente, altrettanto sono contenta che ci abbia raggiunto. Però puzza un po' anche lui. Puzza un po' anche lui. Però lui annuisce sempre molto di gusto, e a questo punto noi finiamo con diciamo questa puntata con un po' di saluti, questa puntata del 30 novembre. Bravissima. Alle ore 21:06. ma perfetto, guarda, quindi insomma l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, i nostri partner saranno contenti. E a questo punto vi ricordiamo che ci sarà un post con tutte le indicazioni rispetto agli eventi suggeriti durante la puntata di oggi, e in diciamo come saluto ultimo mettiamo un altro grandissimo, che spero che abbia tutta la fortuna che merita, perché è veramente un idolo, che è Stefano Bollani, che è un pianista, showman, persona veramente intelligente e molto simpatica, tra le altre cose, che è nato nel 72 ed è veramente un virtuoso del pianoforte. E posto che ha fatto un sacco di cosine, abbiamo messo una traccia che è sua in realtà, quindi di cui lui è anche compositore, che è A Vos No Morro, dell'album Bollani Carioca. E quindi a questo punto, facendo gli auguri anche a lui, noi chiudiamo quest'ultima puntata e ci salutiamo. Ciao ciao. Un bacino. Ciao. Ciao.